sì, è la prima volta che faccio una conferenza in italiano, spero che tutto andrà bene per me e anche per voi naturalmente. Volevo ringraziarmi con Angela, con Rocco, e volevo anche ringraziarmi con la mia amica Tria Rampione che mi ha aiutato a tradurre questo testo che avevo scritto in francese e poi tradotto in italiano. Allora, lo slancio totale avrebbe forse preferito non dividersi. Il convegno Bergson e Plotino, che cos'è il vivente e che cos'è l'essere umano, ci invita a pronunciarsi su una questione che agita da sempre l'esegesi bergsoniana e che non ha cessato di presentarsi sotto nuove forme, secondo i vari scopi interni così come esterni, che si prescriveva, vale a dire lo slancio vitale, che Bergson qualifica come un gesto assolutamente semplice, il quale trascende le categorie puramente intellettuali dell'unità e della molteplicità, avrebbe forse preferito, se gli fosse stata data l'occasione, stare lontano dalle distinzioni nette che costituiscono il modo di essere della materia, cioè avrebbe preferito non dividersi. Va da sé che lo slancio vitale, a dire il vero, non avrebbe preferito nulla, né dividersi, né non dividersi. Ma pensiamo che questa formulazione metaforica e psicologizzante, la quale corrisponde del resto piuttosto bene alle metafore della memoria che Bergson usa spesso per caratterizzare la vita nell'evoluzione creatrice, sia la più comprensiva per evocare un problema che sorge inevitabilmente sul piano concettuale alla lettura di quest'opera. Vale a dire, era necessario all'imperfetto che lo slancio vitale, o il puro volere, o anche il Dio che si manifesta nel nostro sistema solare, si scindesse in entità distinte. Se si risponde di sì, allora di che necessità si tratta, poiché dovunque nel mondo bergsoniano si svolge al contrario una contingenza positiva, il cui nome non è indeterminazione, bensì creatività. Si può inoltre pensare, entro la cornice bergsoniana, ad uno slancio vitale o ad un Dio rimasto presso sé, che non si è mai compromesso con una materia di cui esso stesso è il principio o il correlato, come Bergson dice ripetutamente, e se si può porre la domanda all'imperfetto o anche al condizionale passato, si potrebbe trasporla, ciò che precisamente non crediamo, ad un tempo grammaticale che non è più quello della retrospezione, dunque forse del miraggio retrospettivo, declinandola, cioè, al tempo presente, svelando così alcuni aspetti dell'essenza della vita, quale la concepisce Bergson. Se questa problematica non ha cessato di ripresentarsi nel corso dell'evoluzione dell'esegesi bergsoniana, ci sono due ragioni. Da una parte sembra che si possano rintracciare testi a favore di entrambe le spiegazioni. Dall'altra, e soprattutto, la questione si ripercuote direttamente sull'interpretazione generale del bergsonismo da un punto di vista teologico e politico. Perché se lo slancio vitale poteva non dividersi, allora è, a quel che sembra, un principio puramente spirituale, potenzialmente infinito, per cui l'intromissione nella materia e nelle sue vicissitudini rappresenta fondamentalmente un compromesso o anche una decadenza. Secondo l'interpretazione inversa, lo slancio vitale sarebbe sia per affinità sia per essenza una forza tendenzialmente materiale che comunque si intensifica nel suo contatto con la materia e che ha forse suscitato o lasciato suscitare l'emergere della materia al fine di pervenire pienamente a se stesso, ossia a ciò che non sarebbe mai diventato se la materia non avesse ostacolato lui ed il suo sviluppo. La formulazione più sistematica di questa seconda interpretazione si trova nel libro di Luciano Liberazionismo, 1966, e ha suscitato da allora parecchie obiezioni, alcune delle quali sono legittime, mentre altre sono invece tanto unilaterali quanto la lettura di Luciano. Ora, per quanto riguarda questa domanda, non è solo utile, ma anche indispensabile, rivolgersi a Plotino, di cui l'interpretazione bergsoniana era così profonda, come profondo era l'affetto di Bergson per il filosofo alessandrino. Al centro delle tre occorrenze principali di Plotino nei libri pubblicati di Bergson, cioè nelle occorrenze in cui la relazione di Bergson con Plotino viene tematizzata, si ritrova infatti il problema di cui sopra, vale a dire la domanda sulla distensione, Bergson dice détente o distension, sulla dispersione della vita nella materia oppure in materia addirittura, per citare solo alcune delle metafore più o meno plotiniane che Bergson utilizza. A tal punto che si potrebbe forse dire, ma non useremo tanto, poiché anche la fisica contemporanea, in particolare la termodinamica anti-boltzmanniana, gioca un ruolo importante in questo argomento. Si potrebbe forse dire che Bergson elabori e fissi, stabilisca definitivamente la propria teoria della materialità nel confrontarsi oppure nel misurarsi con Plotino. Ci sono tre occorrenze importanti di Plotino. La prima si trova nell'Evoluzione creatrice, alla pagina 211 dell'edizione francese, nota 1, dove Bergson scrive: la relazione che stabiliamo nel presente capitolo fra l'estensione e la distensione assomiglia per certi versi a quella supposta da Plotino, in certi sviluppi a cui si sarebbe ispirato Ravesson, quando fa dall'estensione non tanto un'inversione dell'essere originario, ma un indebolimento della sua essenza, una delle ultime tappe della processione. Bergson si riferisce qui ai trattati plotiniani 3-6, cioè l'impassibilità degli esseri incorporei, e 4-3, questione sull'anima 1, il quale contiene in particolare il celebre paragone fra la materia e un'ombra schia. Nella nota appena citata, Bergson allude al rapporto sulla filosofia francese di Ravesson, la cui pagina 317, ad esempio, in una di quelle pagine che 20 generazioni di studenti hanno studiato a memoria, come diceva Bergson nelle note che 3 anni prima aveva dedicato alla memoria del suo maestro, dichiara Ravesson, cioè per ispirazione degli storici, citazione, ciò che la causa prima concentra come esistenza nella sua eternità immutabile viene da lei srotolato, e lo déroule, o per così dire, disteso e diffuso nelle condizioni elementari della materialità. Bergson sottoscrive queste asserzioni, ma prendendo in considerazione il loro contesto, vedremo noi che alcuni loro elementi sono fortemente incompatibili con la propria dottrina. Infatti, Bergson commenta nella seconda occorrenza l'uso plotiniano del mito di Narciso allo scopo di far capire metaforicamente il fascino per cui i ricordi anime cadono nel sogno verso delle percezioni corpi a cui più o meno assomigliano. L'ultima occorrenza principale, la quale è stata anticipata da parecchie elezioni a Collège de France, particolarmente durante l'anno 1904 fino al 1905, sul tema dell'evoluzione del problema della libertà, si trova nella percezione del cambiamento e contesta la priorità che Plotino dava alla contemplazione sull'azione. Mentre Plotino sosteneva, ricorda Bergson, che ogni azione è indebolimento della contemplazione, il filosofo francese ritiene invece, come tutti i moderni secondo lui, da Scotto e Descartes fino a Schopenhauer e oltre, che la contemplazione delle idee immutabili sia un'interruzione dell'azione creatrice che sta facendosi, l'azione creatrice che sta facendosi, e che sia peraltro il correlato, nonché la condizione, di un'azione pragmatica oppure utilitaria di cui occorre staccarsi un attimo al fine di contemplare nel senso proprio del termine, cioè capire il movente in quanto tale. Bergson quindi inverte il suo giudizio per quanto riguarda il contributo plotiniano a una filosofia dell'intuizione, ma rimane nello stesso ambito concettuale di prima, cioè la domanda della distensione del termine a partire dal quale è la contemplazione e l'azione, questa distensione si svolge. Non abbiamo qui la pretesa di chiudere questa disputa, in cui abbiamo ricordato gli elementi principali. Non sono a causa delle difficoltà di qualche testo bergsoniano, ma anche perché, anzi, soprattutto perché non si possono esaurire così facilmente le passioni che lo alimentano. Pensiamo però che siamo in grado, grazie a quattro argomenti precisi, di orientare la condizione a tal riguardo verso una certa direzione, qualunque sia l'impatto ulteriore di questo contributo su tale dibattito. Il primo argomento è direttamente testuale ed è determinante, ma forse proprio per la sua efficacia e concisione è molto meno ricco di interesse. Si tratta della distinzione all'inizio del secondo capitolo dell'evoluzione creatrice, il tema è appunto la divisione dello sfancio vitale in linee divergenti dell'evoluzione, fra due individuazioni, di cui la prima è materiale e la seconda delle quali potrebbe essere chiamata formale, secondo un vocabolario aristotelico e scolastico, poiché entro la cornice bergsoniana questa individuazione, la seconda, dipende dalle varie orientazioni che la durata stessa contiene in sé. È appunto questo il senso del paragone fra lo sfancio vitale e una granata che Bergson sviluppa in quelle pagine. Citazione: quando la granata esplode, la sua frammentazione si spiega contemporaneamente con la forza esplosiva della polvere che contiene e con la resistenza che il metallo vi oppone. Lo stesso vale per la frammentazione della vita in individui e in specie. Essa deriva, riteniamo, da due serie di cause: la resistenza che la vita incontra da parte della materia bruta e la forza esplosiva dovuta a un equilibrio instabile di tendenze che la vita porta in sé. Bergson stesso ci mette quindi in guardia, senza nessuna ambiguità, contro un'interpretazione falsa che attribuirebbe l'individuazione a una causa unica, cioè la materia, e non a due cause contemporanee, cioè la materia e la molteplicità di tendenze che lo sfancio vitale in quanto tale porta in sé. La materia determina le dissociazioni, converte le divisioni virtuali e confuse in divisioni attuali e nette, però queste divisioni esistevano già, non tutte, non nello stesso ordine, e l'individuazione materiale si accontenta di sottolineare, trasformandole abbastanza profondamente, delle linee già disegnate, tagliate, ovvero punteggiate. L'axon sviluppa questa pilia grazie a un secondo paragone, il cui valore è analogico, vale a dire il parallelismo con il nostro carattere psicologico individuale. Come la vita in generale contiene virtualmente allo stato di dipendenza l'evoluzione delle piante, degli artropodi e dei vertebrati, così la nostra personalità, quando siamo bambini, possiede virtualmente allo stato di disposizione tutte le personalità che potremmo assumere, delle quali la vita ci costringerà a svilupparne una o due, ed una o due soltanto, per un'attualizzazione che è ugualmente uno sforzo, a scapito delle altre. Ma questa analogia, che sembra lineare e chiara, ci permette in realtà di assistere alla costituzione della problematica dell'individuazione vitale in quanto tale, cioè qui non si tratta più della vita psicologica individuale, bensì della vita biologica in generale, la quale è l'oggetto proprio dell'evoluzione creatrice. Mentre un individuo umano deve necessariamente nel corso della sua storia scegliere, talora dolorosamente, fra le personalità che attualizzerà e quelle che più o meno completamente abbandonerà, avrebbe potuto essere un grande matematico, sarà solo un filosofo, sembra che abbia detto al Giovanni Bergson, il suo professore di matematica, quando gli annunciò che avrebbe preparato il concorso letterario e non il concorso scientifico dell'economia superiore. La natura invece, dice Bergson, dispone di un numero incalcolabile di vite e può quindi svilupparle tutte, o almeno la maggior parte, nel stenderle le une accanto alle altre nello spazio, poiché non è più costretta a concentrarle, poche di loro, intensivamente nel tempo. E così possiamo capire una finzione che, malgrado la sua difficoltà, è ripetuta da Bergson nell'evoluzione creatrice e anche nelle due fonti della morale e della religione. Perché, possiamo chiederci con Bergson, l'evoluzione sul nostro pianeta non è stata lasciata a un unico individuo che, nel corso della propria storia, avrebbe potuto fare man mano tutte le conquiste essenziali della vita, dalla fissazione del carbonio e dalla fabbricazione di canali nervosi in grado di vibrare esplosivamente, fino al superamento degli automatismi nervosi da parte di un'intelligenza liberatoria, senza dimenticare l'elaborazione di un istinto capace di convertirsi in un'intuizione e di un'intelligenza che, sapendo riflettere e adattarsi a un'infinità di oggetti, è appunto l'agente di questa conversione. Perché? Bergson risponde che la vita sul nostro pianeta era, di fatto, troppo ricca, troppo potente, troppo varia per rimanere in un individuo unico senza farlo esplodere. Ma secondo le due fonti e secondo l'evoluzione creatrice stessa, è possibile congetturare che le cose stiano in modi completamente diversi in altri mondi, e cioè che la storia intera di uno slancio vitale particolare si svolga entro un essere vivente unico. Esattamente come la storia intera di una personalità si svolge, secondo il saggio sui dati immediati della coscienza, entro un'anima unica. E secondo un terzo schema delle due fonti, una società si svilupperà non più intensivamente entro una psiche unica, non più estensivamente attraverso più specie viventi, ma alternativamente attraverso coppie di tendenze che si assumeranno successivamente la preponderanza culturale e politica, edonismo ed ascetismo, meccanica e mistica, eccetera. Come si vede, questo problema, il quale ci dà una prospettiva nuova e impressionante sull'architettonica dell'opera di Bergson, non potrebbe neppure essere formulato è la divisione della vita, del semplice in generale, secondo Bergson, derivasse soltanto dalla materia. Qui si tratta infatti dei diversi modi di divisione del semplice, secondo i diversi tipi di materia, psichica, biologica o sociale, a cui viene incontro. Ecco il secondo argomento. L'attualizzazione, secondo Bergson, è sempre una spazializzazione. Il senso di questa affermazione si trova nel dispositivo concettuale costrutto da materia e memoria ed annunciato da questo titolo stesso. Bergson intitola il suo libro Materia e memoria, e non, come sarebbe più semplice, materia e spirito, perché secondo lui lo spirito deve essere definito come memoria, cioè in termini temporali. Memoria caratterizzerà dunque il modo di essere dello spirito, mentre percezione caratterizzerà il modo di essere della materia. Lo conferma il primo capitolo del libro, secondo il quale la percezione non conosce la materia, bensì è la materia stessa, donde il concetto di immagine in sé. Ora, se il ricordo, quale atto della memoria, non è quando a lui un'occhiata sul passato, bensì un pezzo autentico del passato redivivo, allora una percezione, quale parte della materia, è strettamente un pezzo del presente, quale dimensione del tempo. La materia, secondo Bergson, non si trova nel presente, bensì lei è il presente stesso. Ci si deve familiarizzare con questa nuova e difficile tesi di Bergson. Infine, se il passato in quanto tale è virtuale, cioè né agente né cosciente, allora il presente, quale presente è attuale, cioè cosciente ed agente. Bergson decide infatti in materia e memoria, e questa decisione è importantissima per noi, di caratterizzare contro il proprio sarto la coscienza come il segno caratteristico, citazione, del presente, cioè dell'attualmente vissuto, cioè insomma dell'agente. Vale a dire, l'attuale, secondo Bergson, si identifica dunque con l'agente, cioè con l'agente spazio-temporale, mentre si potrebbe pensare, con una tradizione aristotelica, che l'attualizzazione sia dalla parte della contemplazione. Di fatto il saggio attribuiva i gradi superiori della libertà ad una concentrazione puramente spirituale, in cui l'impatto materiale rimaneva problematico. Perciò, se esistono dei processi d'attualizzazione, i quali sono definiti da Bergson in materia e memoria come dei riflussi dei ricordi verso le percezioni che interpretano, allora ogni attualizzazione è una materializzazione, cioè l'avanzare impercettibile, oppure qualitativamente determinato, di una realtà extraspaziale verso le condizioni della spazialità in generale, che consistono nella giusta posizione di parti. Secondo questo secondo argomento, la spiegazione della divisione dello slancio vitale non si trova in un accidente deplorevole e puramente esterno, ma nelle ragioni stesse per cui qualsiasi tendenza semplice accede a sé, si realizza, diventa ciò che è. Il terzo argomento è ancora più originale e ci fa penetrare ancora più profondamente nell'ispirazione di Bergson. Anche se secondo Bergson non è vero che un ostacolo, come lo è la materia per lo slancio vitale, sia necessariamente un organo è, al contrario, sempre un ostacolo. La ragione di questa univocità non è casuale. Non si può dire, per esempio, che gli organi funzionino benché siano ostacoli. ma essenziale. Ogni buon organo deve essere un ostacolo. Pensiamo al caso del linguaggio. La teoria bergsoniana dell'ineffabile è stata tacciata spesso di misticismo, nel senso della dottrina filosofica parzialmente plotiniana, secondo la quale grazie al linguaggio è possibile mostrare che ci siano nella realtà alcune regioni che si sottraggano al linguaggio. Ma secondo Bergson la funzione del linguaggio non è dire qualcosa, bensì impedire di dire tutto. E questo è ciò che appunto rende possibile dire qualcosa, almeno. Perciò si può avere l'impressione che il linguaggio abbia dei limiti, anche se questi limiti sono l'effetto dell'uso efficiente del linguaggio e non la sua condizione restrittiva. Più semplicemente, lo stesso vale per la vista. L'occhio non serve a vedere, bensì a impedire di vedere tutto, in modo che alcuni punti luminosi e loro soltanto si stagino su uno sfondo precedentemente e fruttuosamente oscurato. Potremmo moltiplicare gli esempi. Ricordiamo soltanto che il cervello, secondo Bergson, serve a rendere cosciente, o più esattamente a mantenere cosciente, un ricordo unico, cioè quello di cui si ha bisogno, di fatto in una situazione utilitaria determinata, mentre invece di diritto tutti i nostri ricordi, l'intera nostra memoria o ancora l'intero nostro passato dovrebbero essere presenti tutto il tempo al nostro spirito. Nei termini della biologia, Bergson trasforma qui una problematica istruttiva, come è possibile che a volte vediamo qualcosa, in una problematica selettiva, come è possibile che non vediamo tutto, tutto il tempo. Ora, lui ritiene che questa concezione selettiva della produzione sia pertinente alla teoria della vita stessa, come spiega efficacemente con concisione nella conferenza La coscienza e la vita, la quale nel 1911 riassume e orienta verso una prospettiva morale le conclusioni dell'evoluzione creatrice. La materia, sia per il poeta che mette in versi la sua ispirazione indivisibili, sia per lo slancio vitale che si scinde in specie ed in individui, è, dice Bergson, per la resistenza che oppone e per la docilità a cui possiamo condurla, allo stesso tempo l'ostacolo e lo strumento della creazione, organo, ostacolo. E Bergson aggiunge addirittura lo stimolante. Uno stimolante intensifica le mie forze, ma mettendomi in una situazione pericolosa, rischiosa. Sono stimolato nel proprio senso, ad esempio immunitario, da una cosa che mi potrebbe nuocere se io fossi meno forte e che mi rinforza invece grazie al fatto stesso che io la supero. Tuttavia non si deve intendere qui, come fa Jean-Hippolyte, che lo slancio vitale o il suo principio susciti necessariamente la materia per diventare ciò che è e che non lo sarebbe senza l'intervento negativo della materia. Non si ha qui alcuna necessità. Lo slancio vitale avrebbe potuto non venire incontro a nessuna materia, come invece avrebbe potuto soccombere al fascino immobilizzante della materia, sia veramente stimolati da quello che potrebbe far morire anche qui. Questa assenza nel mondo bergsoniano di una necessità dominante, cioè in altri termini questa presenza della contingenza e della creatività vitali negli stessi ostacoli a cui la vita viene incontro, ci conduce appunto al nostro quarto argomento e anche alla nostra conclusione. A che condizioni, infatti, l'ostacolo materiale potrebbe essere considerato come necessario per il dispiegamento della vita? Alla condizione che la vita o il suo principio sia proprio infinito, perché secondo Hippolyte, lettore di Hegel, solo l'infinito è in grado di suscitare dentro di sé la negazione radicale che rende possibile l'autorealizzazione tramite una negazione della negazione. Però, come dice Bergson ripetutamente, lo slancio è finito ed esso è stato dato una volta per tutte. Questo principio, il più profondo del bergsonismo, secondo Jean Kelevich, è estremamente importante e anche assolutamente decisivo per quanto riguarda il nostro problema. Perché lo slancio vitale, perché se lo slancio vitale fosse infinito, allora sarebbe sufficientemente potente da non doversi dividere in specie ed individui e da poter continuare indiviso il suo cammino trionfale fino al successo ultimo. Però qual è il successo, appunto? Ma soprattutto produrrebbe immediatamente il suo effetto, andrebbe immediatamente alla sua destinazione, in modo che solo un'opposizione esterna oppure l'esteriorità in quanto tale, la materia però lo è davvero secondo Bergson, possa costringerlo a diventare ciò che è in realtà essenzialmente, vale a dire uno sforzo. Ora, secondo Bergson, lo sforzo non ha bisogno necessariamente di una resistenza esterna, ma ci sono, per così dire, degli sforzi intrinseci, cioè degli sforzi che vogliono del tempo, anche se nulla li rallenta. Questa tesi è una delle più originali di Bergson e contraddice un'idea che si trova ad esempio da Mendevivant, secondo il quale lo sforzo presuppone la resistenza. Ma questa concezione milania implica, se la consideriamo fino in fondo, che lo sforzo rappresenti una tendenza virtualmente infinita e che voglia del tempo accidentalmente e non essenzialmente. Il ruolo dell'ostacolo è completamente diverso nel pensiero di Bergson, in particolare nel suo pensiero cosmologico. L'ostacolo non è più la causa della finitudine dello slancio vitale, come se la materia semplicemente delimitasse dall'esterno un impeto che vorrebbe essere infinito. L'ostacolo materiale è l'effetto, ma sarebbe ancora meglio dire la manifestazione o l'espressione di questa finitudine stessa. Perché se lo slancio o il suo principio fosse stato infinito, non si sarebbe mai interrotto oppure invertito in materia. La materia è la finitudine stessa, o anche la misura stessa della finitudine dello slancio, non è affatto un mezzo esterno nel quale lo slancio si sarebbe addentrato a malincuore, così come non è l'altro protagonista di un combattimento che lo slancio avrebbe preferito evitare. Perciò, anche se la vita è separabile di diritto, in quanto è coscienza, della materia, tuttavia Bergson lo definisce sempre per la sua inesplicabile connessione con la materia. Citazioni: la vita è innanzitutto una tendenza ad agire sulla materia voluta, è la coscienza lanciata attraverso la materia. Terzo, si impadronisce di questa materia che è la necessità stessa e tende a introdurvi la maggior quantità possibile di indeterminazione e di libertà. Ancora, è essenzialmente una corrente lanciata attraverso la materia da cui cerca di prendere quello che può, ovvero è la libertà che si inserisce nella necessità e la volge a suo profitto. Qui, e sarà la mia conclusione, qui possiamo intendere come i pensieri della materia secondo Plotino Ravesson da una parte e secondo Bergson dall'altra possano essere completamente diversi, anche se posseggono presupposti comuni che sono stati ricordati all'inizio. Certo, secondo Bergson, come secondo Ravesson, la materia è in qualche misura una esistenza inferiore all'esistenza assoluta, come diceva Ravesson. Le condizioni elementari della materialità si trovano nella distensione e nella diffusione, e perciò si può effettivamente parlare, secondo Bergson come secondo Ravesson, di una dispersione materiale. È vero. Ma secondo Ravesson, la causa prima della materia e di ogni cosa è l'infinito della volontà libera, ciò che chiama Dio alla stessa pagina, in modo che l'emergere della materia può significare soltanto il risultato, dice Ravesson, il risultato di una determinazione volontaria attraverso la quale questa alta esistenza ha essa stessa moderato, attenuato, spento, per così dire, qualcosa della sua attività onnipotente. Bergson riassumerà perfettamente questa teoria della generosità nelle sue note su Ravesson. Ma non c'è niente, o quasi niente, di simile nel pensiero di Bergson, secondo il quale Dio, anche nelle due fonti, non è mai onnipotente, e secondo cui la materia non è il risultato di un'azione cosciente e deliberata, bensì il segno, la percettibilità, la finitudine di un principio che trova nella materia il suo organo, così come il suo ostacolo, ovvero il suo organo in quanto è il suo ostacolo. E lo stesso vale, secondo noi e secondo Bergson stesso, sia per Plotino che per Ravesson. In un trattato che abbiamo citato all'inizio, perché Bergson ne parla, Plotino scrive che allora è il trattato 4.3, che se il corpo non ci fosse, che se ne farebbe l'anima della sua grandezza. Lei, infatti, è già quello che è. Ora, la ragione di ciò, secondo Plotino, è che l'anima, poiché, dice Plotino, non è una quantità definita, risulta essere per sua natura estesa. Secondo Bergson, invece, lo slancio vitale o il suo principio è una quantità definita, e appunto perciò, se il corpo non ci fosse, se lo slancio vitale non si dividesse, non sarebbe quello che è. Grazie a me.